Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio Rucchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, distratta peraltro dal derby della capitale che sta perdendo la sua Roma contro la Lazio 2-1, come tra poco ci racconta Dario Ricci, collegato che saluto. Ciao Dario. Ciao Carlo. Intanto ieri 3 sms di Ibrahimovic alla Juventus, al campionato, a quelli che dicevano che tutto sommato era quasi uguale giocare con o senza questo giocatore, anzi qualcuno diceva nella partita con la Juventus forse paradossalmente l'assenza di Ibra è un vantaggio, secondo me erano sciocchezze e ieri sera ne ho avuto 3 conferme una dietro l'altra nel giro di un quarto d'ora. La Juventus conferma il suo difetto strutturale, cioè l'incapacità di chiudere le partite con le medio-piccole, l'incapacità di trasformare in gol tutta la sua rabbia, tutta la sua capacità aggressiva, e a questo punto si pone un solo obiettivo per la Juventus, cioè vincere a Bologna e agganciare il Milan e continuare questa corsa passo a passo, perché altrimenti il Milan rischia di scappare nonostante la Champions League, ma comunque il passaggio del turno in frigorifero, visto che martedì a Londra si gioca il vantaggio di 4-0 sull'Arsenal. Dunque, risultati del pomeriggio, ci fa un bel aggiornamento Dario Ricci. Anche oggi giornata non splendida per gli arbitri, cominciata male con Valeri a Parma, dove il Napoli ha vinto 2-1 con un sacco di polemiche, dove Leonardi, direttore generale del Parma, ha parlato senza mezzi termini di furto, un rigore che dubbio insomma su Cavani, e poi il gol di Lavezzi a 5 minuti dal termine segnato in fuorigioco. E visto che questi episodi arrivano a grappoli, anche nelle partite che stiamo vedendo ci sono stati 2 gol di quelli simili a quelli a quello di Muntari domenica scorsa, sabato scorso a San Siro, segna la Fiorentina che raddoppia. Dario Ricci, va in cronaca. Sì, arriva il 2-0 della Fiorentina in questo istante, il calcio d'angolo, la mischia in aria ed il gol del numero 15 Nastasic, che si era spinto in avanti tutto solo nell'area cesenate, controlla di petto, gira addirittura di destro e batte Antognoli. 2-0 per la Fiorentina, che era passata in vantaggio, Carla, al 16° del secondo tempo con l'autorete di Moras. Gli altri risultati quando siamo intorno alla mezz'ora della ripresa: l'1-1 tra Lecce e Genoa, Genoa in vantaggio al 21° con Sculli, chiaro caso di gol non gol, visto che il colpo di tacco del genuano viene respinto sulla linea, ma oltre invece per l'arbitro dal difensore leccese. Al 16° del secondo tempo il pareggio di Muriel, 0-0 ancora tra Udinese e Atalanta, Siena in vantaggio per 1-0 al Cagliari col gol di Bogdani, il derby appunto, Lazio in vantaggio per 2-1 sulla Roma, una Roma in 10 dal 7° minuto di gioco per l'espulsione di Stekelenburg, portiere giallorosso, autore del fallo di ultimo uomo su chiara occasione da gol su Klose, lanciato in contropiede da Hernanes che poi appunto al 10° trasforma il calcio di rigore. Al 16° il pareggio di Borini, stessa dinamica del gol di Muntari, quasi la conclusione dell'attaccante romanista, la respinta di Biava, questa volta sembra netto a tutti, sì, e anche all'arbitro nettissimo. Il gol giallorosso e poi al 16° del secondo tempo il 2-1 laziale siglato da Mauri. Ricordiamo che al posto di Lamela, causa l'espulsione di Stekelenburg, Luis Enrique ha sostituito Lamela con Lobont in porta. Alle 18:30 poi, lo ricordiamo, Bologna-Novara, posticipata a quest'ora per i funerali di Lucio Dalla, e alle 20:45 l'atteso Inter-Catania. Sì, dunque questa è la situazione. Vi invito a partecipare quando volete, 800 24 00 24, il numero verde da qui fino alle 19. A Roma si è fatto male Juan in questo istante, è entrato Bojan, anche perché Luis Enrique deve provare a raddrizzare questa partita nata storta con l'espulsione di Stekelenburg, netto rigore su Klose, almeno così a me è sembrato. Non sarà mai troppo tardi quando cancelleranno questa regola che prevede l'espulsione del giocatore per fallo da ultimo uomo. Non era chiaramente un fallo cattivo, la partita è stata così compromessa, se non rovinata, da questa decisione obbligatoria presa da Bergonzi. Dunque Roma in 10 appunto dal 7° minuto di gioco. C'è in questo istante anche il raddoppio del Siena sul Cagliari, siamo al 35esimo. Mi pare che lo abbia segnato Calaiò, mi sembra, no? Sì, Calaiò, che poi si è tolto la maglietta e ha prodotto un'esultanza piuttosto rabbiosa, piuttosto arrabbiata. È partito dalla panchina oggi Calaiò. Vediamo la dinamica del gol con un lancio da centrocampo, con il Cagliari chiaramente sbilanciato. Calaiò che stoppa di petto e segna questo gol molto bello di sinistro in diagonale. Siamo al 36esimo di gioco e dunque Siena che mette in ghiaccio questa partita con il Cagliari. Tra le altre notizie di giornata, sapete che il Napoli, insomma, vi ho detto prima, ha vinto 2-1 a Parma con un sacco di polemiche. Incontrerà tra un paio di settimane un Chelsea che non avrà Villas-Boas in panchina. Chelsea che aveva sborsato, se non ricordo male, una ventina di milioni per comprarsi dal Porto i servizi del tecnico portoghese e che ieri è stato licenziato, oggi è stato licenziato. La panchina andrà a Di Matteo fino al termine della stagione. Di Matteo che era vice di Villas-Boas. Non è mancato un tweet di Luca Vialli. A proposito, se volete twittare c'è anche il nostro di sito, così come abbiamo il sito Facebook. Vialli si è lasciato scappare questo tweet secondo cui scrive: non mi piace quando il vice prende il posto dell'allenatore esonerato, perché è una squadra di allenatori e quindi tutti dovrebbero seguire la sorte del capo. Vale la pena notare, e poi lo faremo anche insieme, come il Chelsea, dopo l'addio di Mourinho, abbia ruotato, diciamo così, 7 allenatori in 4 anni, l'Inter 4 allenatori in 2 anni, a testimonianza del fatto che mi pare che, ma su questo non ho mai avuto grossi dubbi, il number one portoghese, lo special one portoghese, lascia intorno a sé quando se ne va a terra bruciata. Mourinho era a Londra ieri, se non sbaglio, gli è stato chiesto il perché e lui ha risposto: affari miei. Quindi se volete fare due conti, fateli pure. Dario Ricci, sempre gol a Siena. Sempre gol a Siena e sempre da parte del Siena, che ribadisce la netta superiorità sul Cagliari, almeno questo pomeriggio, col 3-0 siglato da Del Grosso. Un bel lancio in profondità, Del Grosso bravo a scattare sul lato sinistro dell'area di rigore, proprio sul filo del fuorigioco, ma in posizione nettamente regolare, e a battere Agassi con un bel sinistro sul primo palo e che si infila sotto la traversa. Carlo, da segnalare nel derby di Roma intorno al 26esimo, quando noi eravamo durante il primo collegamento, c'è stato un parapiglia con uno schiaffetto alla Ibrahimovic, concedimi la similitudine, di Matusalem sul collo di Borini. Staremo a vedere se anche in questo caso ci sarà la prova TV. Dovrebbe. La brutta notizia che arriva dal derby è stata battuta molto dalle agenzie. Un giovane turista spagnolo è stato accoltellato, è stato accoltellato nei pressi dell'Olimpico, dove si sta svolgendo il derby. 25 anni, non è in gravi condizioni, ha una ferita superficiale alla coscia, trasportato al Policlinico Gemelli. L'episodio è avvenuto, insomma, in via Boselli, eccetera, eccetera, in tarda mattinata. Intanto c'è un altro gol importante a Lecce, che ribalta il risultato iniziale della partita. Dario. Lecce che passa in vantaggio per 2-1 con una splendida punizione di Brivio dai 25 metri, un sinistro sul quale Frey non ha potuto far altro che raccogliere il pallone nel sacco, perché veramente si è infilato con potenza clamorosa sotto il 7. Quindi Lecce che ribalta lo svantaggio iniziale, che ora conduce 2-1 quando siamo al 37esimo di gioco. Benissimo, Dario Ricci rimane naturalmente collegato con noi per vivere insieme il finale di queste partite, in attesa dei vostri commenti. 800 24 00 24, mi piacerebbe chiedervi se, alla luce di quanto abbiamo visto ieri sera, di questo difetto che sembra strutturale della Juventus, di questo comunque vizio continuo della Juventus che inanella pareggi con le piccole, non sembra riuscire a togliersi questo vizio, per l'appunto, e di un Milan che ritrova il suo Totem Ibrahimovic, che sbriga con in maniera imperiosa e facile la pratica Palermo, e sappiamo che il Palermo, quantomeno in casa, è normalmente un avversario importante. Ieri sera non lo è stato per il Milan, ma soprattutto un Milan che ha una condizione fisica che sta crescendo in maniera interessante. Vi domando a questo punto, la grande favorita qual è? Intanto saluto Mario Poltronieri perché si sta scaldando anche i motori della Formula 1. Ciao Mario. Ciao Carlo, buonasera. Quindi, a tutti. Mi sembra opportuno fare due chiacchiere, cominciare a fare due chiacchiere in proposito, con un po' di preoccupazione perché i test Mommelo hanno detto che la Ferrari è un po' in ritardo e Alonso oggi ha messo le zampine avanti. All'inizio soffriremo un po', ha detto. E sai, purtroppo anche se hanno cominciato a pensare ai problemi di quest'anno a metà della stagione scorsa, quando già si capiva che quella macchina non avrebbe potuto dare grandi risultati, evidentemente non si è riusciti a trovare subito la strada per essere competitivi con gli altri. Secondo me perché c'è un po' di disorientamento tra le soluzioni da scegliere, perché queste macchine ormai sono diventate così complicate che basta spostare un piccolo particolare e si ottiene un risultato altrimenti imprevedibile. Ma chi ha l'esperienza e la capacità e l'organizzazione per fare il più rapidamente possibile queste esperienze ottiene questo risultato. Chi aspetta di vedere cosa fanno gli altri, è chiaro che se uno fa 8 loro arrivano a 6,5. Quindi l'aver cambiato lo staff, io non dico che costa andasse bene o andasse male, ma insomma aver preso Pat Freimer, è rimasto praticamente lo staff solito, e non penso che potessero fare una macchina sensazionale. La cosa importante era, secondo me, affrontare subito, diciamo così, i problemi uno alla volta, intanto perché se si cerca di risolvere 10 problemi contemporaneamente non ci si riesce, bisogna risolverli uno alla volta. È chiaro che uno dice ma ci sono pochi giorni per provare, non si può fare tutto così con calma. Sì, d'accordo, però un po' aiuta quella galleria, certo, del vento. Ma il problema per esempio è quello delle gomme. Ma com'è possibile che la Ferrari, che monta delle gomme Pirelli che sono italiane e quindi sicuramente ci sono stati all'inizio di queste trattative delle indicazioni a proposito dell'opportunità di scegliere certe mescole piuttosto che altre, sia quella che sfrutta meno bene, per non dire peggio, le gomme? Perché i tempi, anche che fino a stamattina Alonso aveva il secondo tempo dietro a Kimi Raikkonen, ma era un secondo tempo ottenuto con le gomme super soft, quindi i tempi di questi 3 giorni, 4 sono inutili per dare una valutazione reale. E certo, se però i piloti sono così poco convinti della macchina che hanno in mano, vuol dire che i problemi che ci sono molto seri. Certo. E qui io mi rifaccio. Mario, posso interromperti un attimo, poi riprendiamo, certo, la nostra chiacchierata. Aggiornaci Dario Ricci. Sì, è arrivato il 2-2 del Genoa a Lecce, un calcio d'angolo per i rossoblù, il colpo di testa di Sculli, che già era stato il marcatore della prima rete, la deviazione di spalle sfortunata veramente del difensore del Lecce, Miglionico, che ha di fatto spiazzato Benassi, a quel punto impossibilitato a intervenire e a respingere il pallone. Nel derby, Carlo, da segnalare al 39esimo di gioco, Roma vicino al pari con un cross di Marchigno dalla sinistra, il colpo di testa di Totti dall'altezza del dischetto, fuori veramente di pochissimo. Francesco Totti, ora che sta per battere una punizione dal limite sinistro dell'area, una Lazio che malgrado la superiorità numerica, Carlo, ha tirato un po' i remi in barca, e la Roma quindi pur in 10 ha ampie fette di campo per questo forcing finale quando siamo al 43esimo di gioco. Vediamo la punizione di Totti che parte adesso, il tiro è forte, finisce nella mischia, nel groviglio di giocatori davanti al portiere della Lazio, Marchetti, e c'è un fischio dell'arbitro con una conseguente ammonizione e a Borini, se non ho visto male, sì, proprio Borini, il giocatore ammonito, che ha fermato il gioco con fallo tattico, e dunque si resta con la Lazio in vantaggio 2-1, mentre la Fiorentina continua a comandare con il Cesena 2-0, il Lecce vince 2-1 con il, anzi 2-2, scusatemi, abbiamo raccontato prima, 2-2 tra Lecce e Genoa, 3-0 del Siena sul Cagliari, l'Udinese invece non riesce a sbloccare la gara con l'Atalanta. Torno a Mario Poltronieri per parlare della squadra campione del mondo invece, che insomma ieri ha estratto dal cilindro la macchina nuova. Sì, credo che anche loro qualche problemino ce l'hanno, perché ormai queste macchine sono così complicate, diciamo sofisticate, diciamo, e soprattutto in funzione dell'aerodinamica, che basta un piccolo ormai spostamento per modificare sostanzialmente, quindi bisogna studiare molto bene i particolari. La Red Bull ha questo Adrian Newey, che evidentemente è l'uomo guida in questi anni su quello che è lo sviluppo di queste macchine ad altissima efficienza aerodinamica, e quindi è evidente che loro riescono prima a risolvere i problemi, però è chiaro che poi ci può esserci un problema, appunto come lo sterzo, che non ha niente a che vedere con l'aerodinamica. Però a proposito dell'aerodinamica, non dimentichiamoci che il problema Ferrari era stato in un certo senso esorcizzato da Montezemolo quando aveva detto non si può correre un campionato in cui l'aerodinamica conta per il 90%. Sì. Quindi già allora lui pensava, un mese fa, che qualche problema non sarebbe risolto per tempo. Adesso vediamo. Se la macchina, la prima gara è fra 14 giorni, fra 12 sarà il primo turno di prove, si comincerà a capire veramente come stanno le cose. Se questa macchina non riesce nel giro di poche gare a essere competitiva, come più o meno sono le altre solite, Mercedes, McLaren, eccetera, e adesso anche si è inserita alla Lotus di Raikkonen, chi parte in pole position secondo te alla luce di queste prime prove? Appunto, andavo a guardare, infatti le tabelle a 10 anni meno di Schumi, ecco perché c'è cosa così in forma. Sì. Perché è stato un pilota molto freddo, molto veloce, quindi se la macchina va è sicuramente un protagonista. Dicevo, se in questi 14 giorni si riesce a risolvere qualche problema, tanto meglio, se no ci verranno 4-5 gare perché la macchina torni a essere competitiva, e questo naturalmente comporta poi una serie di problemi interni, perché io capisco che Alonso a un certo punto potrebbe perdere la pazienza. Sì, se non l'ha già fatto, perché si è rifiutato di parlare e poi ha rilasciato queste dichiarazioni a media spagnoli, per cui attenti, perché all'inizio soffriremo, ci sono molte cose da migliorare, dobbiamo stringere i denti. Insomma, non sono dichiarazioni propriamente incoraggianti, no? Alonso. No, infatti, è uno che comincia a pensare che se deve andare avanti così. Però mi meraviglio che la Ferrari sia caduta in una situazione di questo tipo. Certo, l'aver perso tutto il pacchetto di Rosbrone, eccetera, eccetera, quando è andato via Todd, è chiaro che si doveva ricominciare da zero. Purtroppo ricominciare da zero con gli altri che corrono così velocemente comporta delle difficoltà che gli uomini attuali non sembrano in grado di poter risolvere rapidamente. Vedremo se, come, quando si sgonfierà questo pessimismo cosmico di Mario Poltronieri, che mi sembra piuttosto evidente. Sentiamo Mario, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie a Mario Poltronieri. D'altra parte, inutili, i problemi ci sono, grande ottimismo ogni volta che vengono tolti i veli alla macchina nuova, ma tanto quello non conta nulla, poi contano i tempi della pista, e questi sono tutt'altro che incoraggianti, così come le parole di Alonso. Torno da Dario Ricci, perché ho visto prima nel derby che la Lazio sta sempre conducendo 2-1, una ammonizione piuttosto inspiegabile di Bergonzi a Bojan, che era stato abbattuto al limite dell'area. È arrivato, mi sembra, un cartellino giallo per simulazione, se non ho visto male. In casa giallorossa ne sono arrivati due, perché uno Bojan per questa simulazione del tutto inesistente, perché il fallo di Biava era apparso netto e sarebbe stato anche un calcio di punizione particolarmente pericoloso dal limite sinistro dell'area di rigore, Carlo, e poi ammonizione per proteste anche per Totti, perché non voleva credere ai suoi occhi, e il capitano giustamente è andato a protestare, e a quel punto Bergonzi ha estratto un altro cartellino giallo. Seguiamo intanto questo attacco della Roma, il cross dalla sinistra, Borini di testa, non impatta bene, il pallone finisce sul fondo. Siamo al 48esimo, Lazio ancora in vantaggio per 2-1. Da segnalare, minuti di recupero anche a Udine, straordinaria parata di Consigli su conclusione di Natale, salvataggio in angolo da parte del portiere atalantino, che ha così salvato anche lo 0-0. Abbiamo due risultati finali che sono quelli di Udine, 0-0 dunque da questo momento ufficiale tra l'Udinese e l'Atalanta, con l'Atalanta che riesce a fermare la corsa dei friulani, ed è definitivo anche il 3-0 del Siena sul Cagliari, partita dominata dal Siena, Ricordo il gol di Bogdani dopo 40 minuti di gioco su una splendida respinta di Agazzi, portiere del Cagliari, su una conclusione di Giorgi. Nel finale di partita entra Calaioda alla panchina, segna al 35esimo con un gran bel gol che prima abbiamo raccontato, con una diagonale da sinistra verso destra, e poi esulta in maniera rabbiosa, quasi a dire: io in panchina che ci sto a fare. Il terzo gol arriva al 37esimo con Del Grosso. Dunque questi sono risultati finali. Si giocano ancora invece minuti di recupero all'Olimpico nel derby della capitale. Vi ricordo un derby che è stato pesantemente condizionato ed è nei fatti dall'espulsione di Stekelenburg, portiere della Roma, dopo soli 7 minuti di gioco, per il fallo da ultimo uomo su Klose. Rigore d'espulsione, Hernanes che trasforma, e derby che mi pare in questo momento, caro Dario Ricci, è arrivato proprio il fischio finale. Sì. L'esultanza del presidente laziale Lotito e di tutta la Nord. Successo della Lazio per 2-1, e da contraltare la delusione del presidente romanista Thomas Di Benedetto. Carlo, chissà se domani esonerano Reia, no? Perché una settimana fa, ve lo ricorderete bene, ci eravamo lasciati nell'incertezza, il sabato sera, ma già abbastanza tardi, nell'incertezza su chi avrebbe guidato la Lazio in campo il giorno dopo. Poi insomma, si era deciso che Zola poteva aspettare, si poteva andare avanti con Reia. Reia ha guidato la Lazio anche verso questa vittoria nel derby, due derby su due, e adesso voglio vedere se Lotito domani lo caccia. Io ringrazio Dario Ricci per i suoi aggiornamenti, lo ritroveremo naturalmente più tardi. Vi do prima del giornale radio tutti i finali, che sono questi: Fiorentina batte Cesena 2-0, 2-2 tra Lecce e Genoa all'Olimpico, giocava in casa la Roma. La Lazio vince 2-1 il derby della capitale, il Siena batte 3-0 il Cagliari, Udinese Atalanta è l'unico 0-0 di questo pomeriggio. In precedenza il Napoli ha vinto 2-1 a Parma, tra mille polemiche per l'arbitraggio di Valeri, e alle 18.30 c'è Bologna-Novare questa sera, Inter-Catania, per vedere se anche Ranieri potrà restare su quella panchina. Cosa dirà Moratti dopo la partita? Adesso ci fermiamo, poi abbiamo due ore per discuterne. 800 24 00 24, numero verde. Dato che gli episodi dubbi non vengono a grappoli mai da soli, oggi abbiamo visto ben due circostanze simili, addirittura quella del derby di Roma praticamente identica al gol fantasma di Muntari a San Siro sabato scorso. Ebbene, in entrambi i casi il gol è stato in questo caso convalidato. Nel primo caso di gol di Borini, dopo la traversa colpita da Juan, la respinta di Biava sulla linea, pallone ben oltre la linea di porta, e gol convalidato da Bergonzi. Un po' più dubbio il caso di Lecce con Sculli che colpisce la palla, Miglionico che pasticcia sulla linea, Russo concede il gol. Non, in questo caso non è chiarissimo, ma ci fidiamo del signor Russo. Ripeto i risultati: una brutta Fiorentina, tra l'altro si è fatto male Jovetic dopo 20 minuti sostituito da Cerci, una brutta Fiorentina riesce comunque in un modo o nell'altro a battere il Cesena 2-0 con l'autorete di Moras al 17esimo della ripresa e il gol di Nastasic al 30esimo sempre del secondo tempo. A Lecce finisce 2-2 dopo questo gol contestato di Sculli e l'espulsione di Cosmi al 43esimo del primo tempo. Nella ripresa il gol di Muriel a sinistro in corsa, molto bello, sotto l'incrocio dei pali, la magnifica punizione di Brivio per il vantaggio del Lecce, e poi un altro gollonzo del Genoa con Sculli che colpisce di testa, palla deviata da un difensore. La rete dell'attaccante genoano, ma fa 2-2 comunque. 2-1 appunto per la Lazio nel derby di Roma. Derby, ripeto per l'ennesima volta, condizionato da questa regola che prima la levano e meglio è, cioè quella dell'espulsione automatica per fallo da ultimo uomo, fallo di Stekelenburg dopo 7 minuti su Klose. Il rigore ci sta, l'espulsione viene decretata da Bergonzi, segna Hernanes, derby in salita da lì in poi per la Roma, che ha grande orgoglio comunque, grande corsa, grande combattività, pareggia meritatamente con Borini al 15esimo, come vi ho raccontato. Al 17esimo del secondo tempo la punizione dalla tre quarti di Ledesma, la scivolata di Mauri che pochissimo si era visto fin qui in questa stagione, ed è il gol partita. Il Siena batte 3-0 il Cagliari, gol di Bogdani dopo 40 minuti di gioco. Nella ripresa chiudono il conto Caraiò al 35esimo e Del Grosso, unico 0-0 del pomeriggio quello tra Udinese e Atalanta. 800 24 00 24 invece è il numero verde per parlare con noi. Sentiremo tra poco anche le voci della dopopartita attraverso i microfoni di Sky. Una ve la faccio già sentire prima di parlare con Alessandra da Grosseto e Gianni da Parma, che sono in linea. È quella di Mazzarri a proposito di contestazioni, di episodi favorevoli o contrari. Oggi favorevoli al Napoli, contrari al Parma. Si è arrabbiato Leonardi, in particolare. Nessuno ha parlato dopo il Parma, per il Parma dopo questa partita, a rigore dubbio su Cavani, poi trasformato dallo stesso Cavani, gol in fuorigioco di Lavezzi, eccetera eccetera. E Leonardi che dice: oggi più che mai sono orgoglioso di tifare per il Parma, di una società che viene bistrattata. Non sono mai orgoglioso dei furti, preoccupato no, anzi oggi sono molto più fiducioso, questo Leonardi. Ma sappiamo che il nostro è il campionato del lamento, perché il lamento evidentemente paga, e lo sapete perfettamente anche voi. 800240024 Mazzarri. Le mie squadre di solito fanno più degli avversari, a volte non meritano i risultati che ottengono. Oggi abbiamo meritato di più di quello che abbiamo meritato. Probabilmente si è compensata la partita dell'andata, dove abbiamo perso immeritatamente. Oggi abbiamo vinto immeritatamente. Il Parma era più fresco di noi, e noi eravamo stanchi, e ci hanno pressato, andavano il doppio di noi, hanno giocato anche meglio, e quindi oggi è un risultato, prendiamo solo il risultato, che in base a quello che abbiamo fatto per tutti gli anni, per tutto l'anno, ci voleva anche a noi, una volta gli episodi ci girassero tutti a favore, per tante partite ci è andato tutto male, quando meritavamo molto più di oggi, e così, non mi è piaciuta la mia squadra, stanchi, poco lucidi. Alessandra, lei sa qual è il soprannome del suo corregionale Mazzarri, vero? Caro Genta, questa è la degna conclusione di una giornata, visto che da Alessandro divento Alessandra. Così mi scrivono, abbia pazienza anche no, con me. No, mi per perdoni. Carità, ma... Lei no, sa qual è il soprannome del suo corregionale Mazzarri? No, non me lo ricordo, però è un piagnone. Lamentino. Sì, Lamentino. Io ho vissuto più a Roma, quindi avrei detto piagnone, ma siamo... Sì. Ma siamo lì, no, ma infatti siamo nella giornata appunto dove gli arbitri. Ah no, a proposito, Nicky aveva detto questa settimana, dice, adesso faremo rispettare il regolamento. Non ho capito perché, a parte a prescindere che, perché invece allora, prima non valeva e poi l'ho visto oggi, cioè non sapevo che l'International Board, guardi, lo dico subito di che cosa stiamo parlando, perché sennò ci perdiamo. Allora no, infatti lo vorrei dire io di cosa stiamo parlando, nel senso che come si fa a fare una seria e serena possibilmente disamina tecnica delle partite. E guardi, sono da Roma, non voglio parlare di Bergonzi. Stendo un velo pietoso su Bergonzi e sul regolamento. Aspetti un attimo, perché sono due cose diverse. Su Bergonzi perché? Perché va bene, sul rigore, vabbè, ci poteva stare. Il regolamento dice che regola stupida, non è contro i Bergonzi. Esatto. Dico, regolamento alla mano, però non voglio esagerare, ma c'erano almeno due giocatori della Lazio regolamento alla mano che andavano espulsi, e non parlo di Scaloni che me lo butta fuori all'ultimo minuto. Cioè almeno Matusalem, almeno lui all'inizio di ripresa, quel fallo a gamba tesa su Totti, già ammonito, se è ben guardato. Però non voglio parlare di Bergonzi, lasciamo. Ma vogliamo parlare dell'arbitraggio di Valeri oggi a Parma? L'arbitraggio di Valeri oggi a Parma è stato insufficiente. È stato insufficiente su comunque due episodi che hanno favorito il Napoli, che hanno fatto arrabbiare il Parma, che però secondo me rientrano nell'ambito della fallibilità arbitrale. Su quel rigore di Cavani è un episodio molto dubbio, cioè questo tocchetto. Nel rugby si chiama francesina, tocchetto sulla gamba di Cavani che inciampa da solo, c'è probabilmente un danno procurato, il Parma ha lamentato anche un rigore su Giovinco che a mio parere poteva anche starci, c'è questo gol di Lavezzi in fuorigioco, e il fuorigioco c'era, non semplicissimo magari da cogliere. Sì, gli errori ci sono, ma ci sono sempre stati e ci saranno sempre, caro Alessandro, di che stiamo a parlare. Stia lì che sentiamo insieme Guidolin con Sky. Di sanzione, credo che vada rivista questa regola, credo che ho letto già qualcosa nei giorni scorsi, se non sbaglio. Quindi, è stata rimandata. Sono molto divisi noi giudizi su questo ancora. Io trovo che vada rivista questo calcio di rigore. La regola per fallo da ultimo uomo, espulsione al fallo da ultimo uomo. Tenta di andare sulla palla, c'è il contrasto. Trovo che sia troppo punitiva. Io volevo sapere quanto le fa male vedere l'espulsione di Stekelenburg, i gol della Lazio, perché tutto questo messo insieme ha portato la Lazio al quarto posto, al terzo posto, e non voi. Ma no, intanto la stagione è ancora lunga e quindi, e prima ancora di questo, complimenti alla Lazio che sta facendo bene come abbiamo fatto noi da quasi due stagioni consecutive, quindi se sono lì vuol dire che lo meritano. A me è dispiaciuto non aver vinto oggi, non guardo alle altre partite, mi è dispiaciuto perché sì, forse non abbiamo fatto la nostra migliore partita, non eravamo così brillanti come in altre situazioni. Le nazionali ci penalizzano troppo, altra regola lì da rivedere sarebbe mettere una data FIFA in un momento cruciale del campionato con giocatori e squadre che hanno giocato, che giocano quasi sempre tre volte alla settimana, mettere la terza partita anche per i nazionali. Mi sembra proprio un pelino, non più di tanto, non tener conto della, che sono ragazzi, che sono uomini, che non ce la fanno. Molti hanno fatto viaggi transoceanici, quindi fusi orari. Veramente bisognerebbe rivedere tante cose del nostro mondo del calcio. Ma con questo niente da dire, l'Atalanta ha fatto la propria partita, si è difesa bene. Noi ci abbiamo provato, abbiamo avuto forse la più bella palla gol alla fine, sarebbe stato meritato, ma l'Atalanta non ha rubato niente, quindi si va avanti e alla fine tireremo le somme. Questo Guidolin, classifica Milan 54, Juventus 51, con una partita da recuperare in settimana a Bologna che diventa a questo punto cruciale per la Juventus. Lazio terza da sola 48, Udinese 46, Napoli 43, Roma 38, Inter 36, Palermo, Chievo 34, Catania 33, Atalanta e Genoa 32 punti, a 31 ci sono Fiorentina e Cagliari con 29 punti, Siena e Parma 28 per il Bologna, 25 per il Lecce, Novara 17, Cesena 16, ricordo Bologna-Cesena, Bologna-Novara scusate, alle 18.30. Gianni, buonasera. Buonasera. Dunque, io volevo commentare la partita di ieri della Juventus, è una serie di prestazioni sottotono, era da aspettarselo, cioè una squadra che gioca a 300 km orari, poi al momento della flessione, visto che non ha campioni alla Ibrahimovic o alla, insomma, il giocatore geniale, lasciamo stare Messi, comunque questi personaggi che quando la squadra non va ti risolvono il problema. Problema che si ritroverà la Juve ad affrontare quest'estate. Adesso al di là di come andrà lo scudetto mi sembra un dettaglio abbastanza importante, perché esatto, cioè perché comunque perché comunque la Juventus è da corsa per lo scudetto, ha questo difetto strutturale che ormai abbiamo capito, lei credo la pensa più o meno come me, cioè la Juventus manca il giocatore in grado comunque di risolvere, di trasformare tutta quella carica, tutta quella rabbia, tutta quella sterilità, se vogliamo, in gol. Esatto. Ieri ero allo stadio, ho visto una persona che veramente è di un'insopportabilità quando non ne ha voglia, che si chiama Vucinic, fa un po' rima con Ibrahimovic, ma è una rima solo così di nazionalità, di ex Jugoslavia, eccetera. Per il resto non hanno nulla in comune, se no. Cioè, ha proprio un'indolenza calcistica. Ma guardi, Vucinic secondo me è un grande giocatore. Vucinic secondo me è un grande giocatore che alla Juventus ancora non si è visto se non con grande intermittenza. Io lo aspetterei perché ripeto, è uno di quelli certamente incostanti, perché la continuità di rendimento non sarà mai il suo punto di forza, però è comunque un giocatore in grado di fare la differenza. Ripeto, io quest'anno alla Juventus non ho mai visto il Vucinic a tratti devastante che in diverse stagioni si è visto alla Roma, non so se siano problemi di ambientamento, di adattamento e di adattabilità a ciò che Conte chiede, se siano problemi dovuti al fatto che chi gioca nella Juventus, chiunque sia, deve comunque correre moltissimo. Non so quale sia, forse un po' di tutto questo, quale sia la ragione precisa, però credo che Mirko Vucinic vada aspettato ancora un po', anche perché è l'unico giocatore con quelle caratteristiche. Se poi per tutta la vigilia dicono gioca Del Piero e Del Piero alla fine non si vede pochissimo, ecco, Del Piero è un altro di quelli in grado di, su una punizione, su un'invenzione, su una palla giocata al limite dell'area, su quello che volete voi, di segnare il gol della tranquillità, il gol che ti permette di portare a casa 3 punti invece di uno solo. È un piacere ritrovare dopo lunga assenza il direttore Xavier Iacobelli. Buonasera direttore, ciao. Buonasera Carlo, buonasera agli amici ascoltatori di Radio 24 da calciomercato.com. Come stai? Bene, grazie. Spero altrettanto tu e i nostri amici ascoltatori. Non ce l'ho. Nonostante invece gli altri nostri amici arbitri e assistenti e il loro presidente Nicchi si diano da fare per rovinarci le domeniche, cosa che è puntualmente riuscita loro anche oggi con un'assiduità degna di miglior causa. Sì, sentiamo insieme cosa ha da dire Luis Enrique, direttore con Sky. Buono, mi aspettava che sei molto positivo. Mancano 12 partite, il mio lavoro, il lavoro dei ragazzi è continuare fino alla fine della stagione. E se parliamo del derby, di tutti i due derby, qualche volta mi piacerebbe giocare qualsiasi derby con 11. Si sta riferendo evidentemente all'episodio che potrebbe aver condizionato la partita, non so se, visto che lo stava rivedendo insieme a noi, non so se vuole fare un commento e se secondo lei ha fortemente condizionato la partita questo episodio. Ci riferiamo all'espulsione di Stekelenburg evidentemente. No, è uguale giocare con 10 che con 11, è lo stesso. Sembra che è lo stesso. No, no, ma quello che dico io, quello che penso io non conta nulla. Ma secondo lei c'era il fallo e l'espulsione? No, no, non parlo mai degli arbitri. Ma è chiaro che qualche volta mi piacerebbe giocare un derby con 11 giocatori fino alla fine. Beh, direttore, è legittima la richiesta di Luis Enrique. Beh, mi sembra giusto. Siccome Nicky non più tardi di ieri sera ci ha detto che gli arbitri italiani sono i migliori del mondo, sì, credo che espellere Stekelenburg dopo 6 minuti, quando non doveva essere espulso perché doveva essere ammonito, il rigore c'era assolutamente, evidentemente ha condizionato l'andamento del, cioè, gioco. Secondo te non era fallo da ultimo uomo? Perché secondo me no, perché quando stava rivenendo quando. Esatto. E poi c'è un'altra cosa, secondo me ancora molto più grave, che va al di là delle questioni tecnico-calcistiche di pallone nudo e crudo, cioè il trattamento che è stato riservato a Juan dai gentiluomini che lo hanno bersagliato di cori razzisti. E Juan è stato assolutamente, ha tenuto un comportamento di grande dignità e di grande coraggio, ha cercato di zittire questi ignoranti incivili, perché il razzismo è prima di tutto ignoranza, e ovviamente l'arbitro si è ben guardato a sospendere la partita. Certo. Quando il signor Nicchi va a pontificare in Rai e parla degli errori che non ci sono degli arbitri, ci dovrebbe spiegare come mai l'Italia non applica la regola di dettato della UEFA che in caso di ululati razzisti, di cori razzisti, prevede la sospensione della partita, perché non hanno coraggio, perché questo è un sistema pieno di ipocrisia. Questo è un sistema in cui il coraggio è scarso, come d'altra parte quello che non ha avuto l'arbitro di Milan-Juventus, che aveva indicato un gol che aveva visto tutto il mondo e non ha avuto il coraggio di andare sopra la decisione errata di Romagnoli. Ma vedi Carlo, noi parliamo di ipocrisia. I signori della FIFA, Blatter in testa, hanno certificato la nascita della moviola in campo il 9 luglio 2006 all'Olympia Stadium di Berlino, finale mondiale Italia-Francia, perché se il quarto uomo non avesse avvisato l'arbitro della testata di Zidane a Materazzi, Zidane sarebbe rimasto regolarmente in campo. Dopodiché ieri ci hanno detto gli altri gentiluomini dell'International Board, che si stanno prendendo tutto il tempo necessario, sono 10 anni che l'Udinese ha varato il meccanismo per stabilire se il pallone sia o non sia entrato in porta, 10 anni, ci hanno detto che adesso ci sono 2 sistemi e il 2 luglio a Kiev forse ne sceglieranno uno, ma ti rendi conto chi governa il calcio mondiale? No, ma l'abbiamo capito da un pezzo, direttore, questo lo sappiamo perfettamente. Prima o poi riuscire a sbarazzarsi, con termini con metodi assolutamente democratici, però quando poi rieleggono Blatter per un altro mandato è evidente che allora se la cercano. Ma sai come funzionano anche quelle elezioni, no? Sai meglio di me anche quelle elezioni come funzionano. Direttore, invece, i tre squilli di Ibrahimovic, i tre ruggiti di Ibrahimovic, ha una Juventus che ha questo difetto strutturale per cui quando vede una medio piccola si incarta, hanno un peso decisivo per il campionato? Un peso devastante. Devastante. Come la potenza del fuoriclasse svedese. Speriamo che continui a giocare a lungo nel nostro campionato, perché noi chiamiamo il calcio, ci esaltiamo di fronte alle prodezze di Ibrahimovic, al quale, guarda caso, caso Allegri ha detto avere fatto bene la squalifica. Allora la domanda che sorge spontanea è perché il Milan aveva presentato ricorso. È evidente che anche Ibrahimovic non sia un robot, ha avuto un rendimento straordinario, ha accusato un calo assolutamente fisiologico anche dal punto di vista nervoso, tant'è vero che i falli che aveva commesso, che gli erano costati le tre giornate di squalifica, nascevano anche da questa necessità di tirare il fiato. Sì. Ha tirato il fiato non in Coppa dei Campioni, per fortuna del Milan nel nostro calcio, perché l'Arsenal ne sa qualcosa, e è tornato in campionato ed è lui che fa la differenza, ed è lui che è destinato a fare la differenza nel duello con la Juve, fermo restando il fatto che secondo me molte delle critiche piovute addosso alla Juventus oggi siano state ingenerose e improvvide, perché la Juventus ha finora disputato una stagione eccezionale, certo, ma come lo stesso Conte ha riconosciuto con molta franchezza, paga lo sforzo enorme sostenuto dal punto di vista atletico e psicologico per reggere il passo del Milan. Sì, sì, sì, sì. Cosa dovrebbe fare Conte adesso per chiudere, direttore? Alzare un po' il piede dall'acceleratore, cioè provare a gestire con un po' più di leggerezza questa squadra che sembra veramente molto sotto pressione? Secondo me la prima cosa da fare è puntare su Del Piero, perché ieri sera non abbiamo visto sia Matri sia soprattutto Vucinic girare a vuoto, e quindi il capitano, che è e rimane un punto di riferimento insostituibile per la Juventus, avendo peraltro giocato molto poco, è ricco di energie. Sì. E in questo passaggio molto delicato per la Juventus del campionato, alle viste c'è il recupero di mercoledì con il Bologna, non sarà una passeggiata di salute, secondo me Del Piero può risultare decisivo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a te Carlo e grazie agli amici di Radio 24 da calciomercato.com. Grazie a Xavier Iacobelli. Mario da Napoli. Ciao. Ciao. Ciao, scusami. Mi riferivo un attimo fa all'intervista che è arrivata. Di Mazzarri. Perfetto, ma il lamentino. Io credo che dovreste smetterlo un attimino, per un semplice motivo. E perché? Mazzarri, e le spiego, Mazzarri ha detto tranquillamente, oggi effettivamente abbiamo raccolto più di quello che dovevamo raccogliere. Punto, cioè che c'entra a lamentarsi? Ma no. Perché non ha visto la partita. No, ma che c'entra, che c'entra momenti, questo? No, guardi, mi permetta. Ma io le permetto finché vuole. La ringrazio. Tante altre volte Mazzarri non aveva mancato, e nemmeno oggi ha mancato di sottolineare. Gentilmente, volevo un attimo continuare il mio discorso. Sì. Mancava soltanto che legge il suo giornalista che è intervenuto, tiravate fuori maccheroni, pizza e. Ma che c'è? Ma cosa c'entra questo? Ma cosa c'entra questo? Il Napoli è una squadretta che fa della velocità. Il Napoli è una grande squadra, non è una squadretta, lo dice lei. Parlate sempre con pressafochismo, cioè non so per quale motivo. Almeno questo è quello che ho avuto modo io di ascoltare nelle righe mentre si è Ma si vede che le righe sono arrivate storte, perché è il contrario, esattamente il contrario di ciò che io penso sul Napoli. Mazzarri ha questo vizio di lamentarsi spesso quando le cose non vanno bene. Il soprannome Lamentino non l'ho inventato io. Oggi è stato onesto, anche perché non poteva fare altrimenti, dicendo non meritavamo probabilmente di vincere questa partita, abbiamo avuto episodi favorevoli come altre volte abbiamo avuto episodi contrari, e questi episodi contrari non vengono comunque sempre sottolineati ogni qualvolta capitino, anche perché la politica, la triste verità è che la politica dell'allamento, del lamentino, che non è Mazzarri ma è un modo di comportarsi, lo sappiamo bene, nel nostro calcio paga dividendi. Luca da Torino. Sì, buonasera. A proposito appunto di lamenti, credo che Mazzarri appunto sarebbe stato appunto l'ideale allenatore, probabile allenatore della Juve, visto i suoi lamenti, visto che ha definito Inter Napoli dell'andata la partita perfetta, insomma. Più che altro io vorrei, se si potesse, sarebbe un grandissimo regalo di castigare i ricorsi che vengono respinti con un ulteriore aggravio di pena di qualsiasi tipo, così almeno questi ricorsi finti, fasulli, oserei dire indecenti. Ma a cosa ci riferiamo, a Ibrahimovic? No, ma a tutto, perché... Luca, abbia pazienza, esiste anche esistono dei gradi di giudizio e non possiamo, per quanto pretestuoso possa essere un ricorso, non possiamo aggiungere questo ulteriore aggravante, sennò sarebbe come dire chi è stato condannato in primo grado e va in appello, se perde l'appello invece di beccare 2 anni di galera ne becca 8. Questo non lo condivido, mi sembra antigiuridico, insomma. Chiunque ha diritto di fare ricorso nei confronti di una decisione, ha ragione o ha torto, e poi sarà chi deve giudicare questo ricorso in libertà di coscienza, così almeno si immagina e si spera, a dirimere la controversia. Quindi non sono d'accordo su questa su queste pene draconiane che lei propone. 8 giorni fa era l'ex allenatore della Lazio, oggi ha rivinto il derby, a Direi con Sky. Stiamo facendo quello che ci si aspettava, lo so che è difficile ripetersi perché non è mai facile ottenere dei risultati, in modo particolare il campionato italiano. Mancano ancora parecchie partite, attualmente siamo in buona posizione in classifica, però ci sono ancora tante partite da disputare. Mi auguro che la squadra possa tenere questa concentrazione e soprattutto recuperare dal punto di vista fisico, perché così adesso non siamo più impegnati in Europa, di conseguenza la nostra concentrazione va esclusivamente al campionato. È stata la vittoria, secondo me, della maturità, nel senso che poteva venire la tentazione di mettersi a testa bassa, attaccare la Roma in inferiorità numerica, invece comunque avete avuto la saggezza, la maturità di aspettare il momento giusto. È così o si aspettava qualcosa di diverso dopo l'espulsione di Stekelenburg? No, noi avevamo preparato la gara in questa maniera qui, non abbiamo cambiato assolutamente l'assetto tattico. Avevamo un equilibrio prima, quando eravamo in parità numerica, e non volevo perdere questo equilibrio, perché quando c'è una squadra equilibrata o prima o dopo l'opportunità ti capita anche per chiudere la gara. Noi abbiamo avuto le 3 palle, abbiamo avuto 3-4 palle da chiudere la partita, primo tempo con Hernanes, secondo tempo 2 colpi di testa, uno di Klose, e poi Mauri ha avuto un'altra palla, Hernanes su un'altra palla. Ecco, sai, sei sul 2-1, poi a 5 minuti dalla fine arriva un po' d'impressione, perché la Roma ha dei giocatori che ti possono inventare la giocata da un momento all'altro, invece noi siamo stati, diciamo così, abbastanza sicuri in fase difensiva, anche se abbiamo concesso un po' di campo che a me non piaceva, perché eravamo ancora in superiorità numerica, dovevamo fare delle ripartenze e mantenere un po' di più il possesso palla, però abbiamo vinto, è quello che conta. Questo è Reia con Sky, restiamo all'Olimpico, andiamo da Guglielmo Timpano. Ciao Guglielmo. Buonasera Carlo, un gol per tempo per la Lazio, per liquidare la Roma e per archiviare le velleità di Champions League della squadra giallorossa. Roma che a questo punto, lo annotavamo con i colleghi qui in tribuna stampa, non ha più nulla da perdere in questo campionato, ma letteralmente parlando, perché fuori dall'Europa League a inizio stagione, fuori dalla Coppa Italia, adesso fuori anche dalla lotta per il terzo posto, difficile anche arrivare in Europa League per la prossima stagione. 2 derby persi che qui a Roma contano parecchio, è una stagione del progetto quella in divenire molto molto molto difficile per Luis Enrique e per i suoi. Sì, questo è vero, anche se era difficile probabilmente chiedere di più a questa squadra così strana, costruita in maniera così interessante, però insomma un naturale processo di crescita era plausibile. Diciamo che comunque la partita di oggi, insomma, la Roma non l'ha giocata come poteva in inferiorità numerica tutta la gara, ed è giusto che Luis Enrique dica prima o poi mi piacerebbe giocarne 1-11 contro 11. Assolutamente sì, forse anche 10 contro 10 avrebbe potuto essere giocato questo derby, perché non discutendo su quella che può essere la decisione di Stekelenburg, siamo comunque ai limiti del regolamento, anche se poi il portiere si è lamentato del fatto che potesse essere sufficiente solamente un giallo. Anche alcuni interventi, soprattutto faccio riferimento a Biava nel primo tempo già ammonito, potevano restituire la parità numerica a un match che probabilmente sarebbe stato anche più bello. Se poi Carlo possiamo commentarlo insieme con Francesca Ferrazza di Repubblica qui accanto a me in zona mista. Un parere, Francesca, su una partita molto condizionata dall'espulsione, ma che oggettivamente la Roma ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, magari in 10 contro 11 alla fine un po' troppa linea e poche verticalizzazioni. Sì, intanto buonasera a tutti. Una partita che probabilmente la Roma ha sbagliato da subito come atteggiamento, perché la Lazio è stata aggressiva ed è un modo di affrontare le partite che solitamente è della Roma, che non lascia subito spazio agli avversari e si fa subito pericolosa. Lei è in questo senso un po' sorpreso, se vogliamo, Luis Enrique, con questo tipo di atteggiamento. La Roma è sembrata subito in difficoltà. Paradossalmente l'espulsione invece aveva caricato i giallorossi, dando un po' di timore alla Lazio. La Roma lì forse ha creato le migliori sue occasioni. Poi però, ormai, insomma, poi è una partita che è stata anche condizionata dagli episodi. Devo dire che l'arbitro a un certo punto è andato completamente nel pallone, ha sbagliato la gestione delle ammonizioni, dei falli, probabilmente il rigore l'ha condizionato poi nel proseguo della partita, ed è assolutamente stata insufficiente la sua direzione. Ritengo che la Roma la Lazio abbia meritato alla fine la vittoria, anche se per la Roma rimangono dei rimpianti di un paio di occasioni, soprattutto nel finale, che avrebbero potuto portare al pareggio. Certo, Guglielmo, una stagione fallimentare per la Roma. Ai tifosi era rimasta forse tanto la soddisfazione cittadina di vincere almeno un derby, visto che anche quello d'andata era stato perso. In realtà ci troviamo al 4 marzo e la stagione della Roma si può definire finita, e questa forse è il più grande rammarico per la nuova Roma americana nella sua prima stagione in Italia. Grazie Francesca. Da annotare a livello meramente scaramantico, lascia il tempo che trova Carlo, la sì. presenza in tribuna di Thomas Di Benedetto, perlomeno sfortunato il presidente statunitense, perché insomma nelle ultime apparizioni allo Stadio Olimpico non è mai riuscito a vedere la Roma vincitrice. Forse è meglio che rimane negli Stati Uniti e la guardi in TV. Stai dicendo questo. Grazie a Guglielmo Timpano dall'Olimpico, Andrea da Milano, poi Cristina da Sanremo. 800 24 00 24 numero verde. Insomma, la Roma è lontana da tutto, però da qui a definire in maniera decisa, secca e netta la stagione giallorossa mi sembra un po' prestino. Vediamo che cosa riesce a fare, squadra molto ondivaga, e questo è anche comprensibile visto che è una squadra giovane, una squadra strana, una squadra in crescita, quindi dei risultati molto altalenanti. Vediamo da qui a tra 12 partite dove sarà la Roma. La zona Champions League mi sembra lontanissima, perché 10 punti sono troppi, perché ha davanti altre tre squadre che sono Lazio terza, Udinese quarta e Napoli quinta. Dare oggi un giudizio definitivo sulla stagione della Roma a me sembra eccessivo. Andrea. Salve. Salve. Mi rilascio proprio all'ultima cosa per dire poi i miei argomenti. Sì. È evidente che il tasso tecnico di questo nostro campionato è veramente modesto. Io sono un tifoso della Lazio. Se la Lazio è al terzo posto, che è diciamo una buona squadra, e da sola sostanzialmente, dopo una prestazione di domenica scorsa e questa prestazione del derby, con una partita sostanzialmente modesta dal punto di vista tecnico, abbastanza carica agonisticamente, vuol dire che il campionato, ma la dice anche lunga. La Lazio batte 2-0 al Milan, poi perde 5 gol a Palermo, però poi il Milan fa 4 a Palermo. Sì. Quindi, insomma, è un campionato che secondo me dal punto di vista tecnico veramente... Ma non, guardi, modesto, non saprei, mi sembra una questione che non ha grandi soluzioni. Secondo lei il campionato spagnolo dal punto di vista tecnico ha grandi contenuti? Tecnico puro sì, secondo me, come calciatori, come fuori classe, come cosa, componente. Però allora intendiamoci, va bene, Barcellona, ho capito, Barcellona e Real Madrid ad ogni partita insomma contano i gol con il pallottoliere. Mi sembra che sotto queste due il campionato spagnolo sia modesto da un punto di vista spettacolare, da un punto di vista emotivo, dal punto di vista delle sorprese possibili. Mi sembra che sia più brutto esteticamente, non so se parliamo di estetica o di interesse. Il campionato italiano a me sembra interessante, pur non bello esteticamente, proprio per i motivi che lei sottolineava. Poi sono forse sofismi. No, è vero, ha ragione, è interessante perché è un testa coda continuo, cioè dei risultati assolutamente imbarazzanti. Una domenica per il giorno, l'altra domenica si ribalta tutto. Sì. Non c'è questa continuità così. Certo, Real e Barcellona però hanno 5-6 fuori classe la squadra. È evidente che in Italia, escluso Ibrahimovic, forse Hernanes nella Lazio, che è un bel giocatore, forse potrebbe aspirare a fare fuori classe. Io non vedo proprio dei grandissimi talenti. Sì. E invece l'altra cosa, l'altro argomento, poi l'ascolto per radio e la saluto. Il mercato della Juve, ho visto, lei ha cominciato parlando appunto della Juve col discorso che si potrà trovare in difficoltà quest'estate, ma a gennaio con un Gilardino sulla piazza, perché non è stato preso? Che è il giocatore ideale secondo me per questa Juve, quel gioco che fa la Juve sulle fasce, con i suoi cross, con la sua velocità. È vero, Mandri è un bel giocatore, però non ha qualcosa in più che potrebbe avere Gilardino come esperienza, come rapidità, come voglia di disegnare. Ma non guardi, ma ne penso che insomma non sarebbe cambiato poi moltissimo. Se hai Matri, l'hai riscattato, l'hai pagato tanto, è un buon giocatore e sta giocando una buona stagione, non vai a prendere Gilardino, che mi pare comunque un giocatore in vago declino, no? Quindi certamente ha più fiuto del gol rispetto a Matri, è uno di quelli che un giocatore d'area di rigore spaventoso, ora vediamo se si riprende nel Genoa, cosa che non ha ancora fatto. però non mi sembra quello il punto, cioè non è Gilardino l'uomo che ti risolve da solo partite come quella di ieri sera, come tante ne abbiamo viste in questa stagione della Juventus. Il giocatore che ti risolve questo tipo di partite è Ibrahimovic, che ne so, Agüero, so, ditemi voi il nome, è il giocatore, è Del Piero quando era Del Piero, è il giocatore che ti inventa la giocata in un contesto bloccato. È questo tipo di giocatore che secondo me alla Juventus manca. Con piacere, Cristina da Sanremo. Buonasera. Buonasera. Intanto volevo fare i complimenti per il modo che ha di porsi nei confronti dei radiospettatori, perché veramente sempre gentile. Grazie. E poi volevo parlare un attimo dell'Inter, perché sono una grandissima tifosa. Sì. E sono in attesa della partita di stasera. E volevo sapere lei come la vede, se questa potrebbe essere magari una svolta, se potrebbe esserci un, diciamo così, una rinascita. Il miracolo? Un miracolo dell'Inter, chiamiamolo così. No, guardi Cristina, credo sia una partita importante perché si tratta di invertire un trend fatto di 7 sconfitte consecutive. Io continuo a pensare che il destino di Ranieri a medio termine sia segnato, a brevissimo termine no, perché quantomeno credo che realisticamente sarebbe il caso di aspettare la gara di ritorno con il Marsiglia. Sappiamo quali sono le logiche e le dinamiche dell'Inter. In questo momento ci sono dei gruppi di pressione o gruppi di potere che non parlano italiano ma ispanico, che hanno preso il comando delle operazioni. E insomma, io credo che comunque si aspetterà la partita di ritorno con il Marsiglia prima di prendere un provvedimento che comunque sarebbe sgradevole, sarebbe sbagliato secondo me, perché è giusto arrivare con una squadra a fine ciclo come l'Inter, è giusto arrivare al termine della stagione con questo allenatore che si è scelto e si è difeso. Giusto anche fare i conti con il futuro, perché c'è Villas-Boas, come sapete oggi si è liberato, è un allenatore che piace molto a Moratti, ma questi sono discorsi un tantino prematuri. Al momento io voglio salutare, ringraziare e fare i complimenti a Mimmo Di Carlo, che ieri ha fermato la Juventus in casa sua. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Come si fa qualcosa? A fermare la Juventus. Ah, beh, non è che siamo gli unici, voglio dire, a aver fermato la Juve, anche se bisogna dire che forse abbiamo incontrato anche in un momento che della settimana delle nazionali, che sono tornati un po' più stanchi, si può dire così, perché ieri di solito la Juve corre molto di più. Invece ieri siamo stati bravi noi anche a correre più della Juve, cercare di mettere in difficoltà fino all'ultimo minuto, perché abbiamo finito la partita attaccando. Questo è un buon segno per noi del Chievo, però bisogna sempre dire che la Juve ha una mentalità che mi piace mentre dall'allenatore, e la voglia della squadra di voler fare qualcosa di importante. Sì, certamente. La mia sensazione è che si debba fare un gran lavoro a centrocampo, anche perché davanti, è sempre una mia sensazione, manca il giocatore che ha il colpo risolutivo. Ma io penso che hanno preso Borriello, penso per questo motivo qui, perché è un giocatore che può dare un turno, cioè si può insieme a Madri possono sostituirsi in questo caso qui e dare più qualità tecniche, anche se Madri devo dire che quando sta bene è un giocatore determinante. Poi mi permetto di dire che Del Piero per me rimane sempre un grandissimo giocatore, come Totti in questo caso qui, e meno male che ieri è entrato forse ultimi 20 minuti, perché avevo paura, veramente avevo tanta paura Del Piero. Però Del Piero si è alzato ieri sera per gli ultimi 20 minuti, ed è tanto, perché di solito non si alza mai da quella panchina. Non, francamente diventa difficile anche capire il perché. Sono giornate difficili per gli amici arbitri. Non è semplice, soprattutto quando si fanno degli errori un po' grossolani. Però, ripeto, io l'ho detto ieri, capisco benissimo magari chi subisce il danno, che in questo momento qui è abbastanza difficile accettarlo, ma io penso che non lo facciano assolutamente apposta, e certi errori delle volte vanno a favore e delle volte ti vengono contro. Sì, però ora, visto anche il derby di Roma, insomma, se non è questione di arbitri è questione anche di regolamenti, perché mi pare assurda la regola dell'espulsione per fallo da ultimo uomo, ammesso che Stekelenburg fosse ultimo uomo. Beh, sono sono d'accordo, quelle sono valutazioni che deve prendere l'arbitro in quel momento lì insieme a tutti i quattro assistenti che ci sono in campo. Penso che si è deciso di prendere la decisione lì e ha tutte le sue ragioni. Certo, ed è il suo Chievo che mi dice? Stagione splendida. Ma diciamo che il Chievo è un momento positivo dove ha ritrovato un po' tutti i giocatori che da inizio anno hanno fatto un po' di fatica a inserirsi nel contesto Chievo, e adesso ci sono solo margini di miglioramento, e la personalità che abbiamo messo in campo ieri fa ben sperare, perché questa è una squadra che può ancora fare qualcosa in più di quello che ha fatto fino adesso e sicuramente arrivare il prima possibile a salvezza, arrivandoci tramite il gioco, tramite quello che sono le caratteristiche del Chievo, che sono la velocità, il gioco e l'imprevedibilità nella partita. So che va contro il suo interesse, ma un paio di giocatori suoi giovani che consiglierebbe a qualche grande? Ma in questo momento qui sinceramente devo dire che Bradley e Terò sono due giocatori che sono un pochino appetito delle grandi squadre, perché possono, per tecnica, per personalità e per fisicità anche, possono giocare grandi squadre, però prima di andare nelle grandi squadre devono confermarsi nel Chievo, e penso che tutti e due rimarranno a Chievo per cercare di fare anche un pochino più grande quello che è la squadra Chievo. Sì, e poi tanto ci pensa Pellissier. Adesso arriverà Pellissier, perché comunque questa squalifica probabilmente l'avrà caricata ancora di più di quello che per le motivazioni che già ne ha, ma sicuramente avrà voglia di tornare in campo, e neanche a fare la posta torneremo venerdì prossimo contro l'Inter, quindi mi aspetto Pellissier in grandissima forma. Grazie mister, un abbraccio. Grazie. Sempre a voi. Un piacere. Grazie a Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo. Francesco da Terni, poi chiudiamo questa ora insieme, vi do appuntamento a dopo il GR delle 18 naturalmente, perché alle 19 qui si va avanti, 800 24 00 24 è la vostra voce. Francesco? Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo provare a spezzare una lancia in favore della mia classe arbitrale, visto che sono uno dei tanti arbitri dilettanti che ogni domenica si va a prendere un po' di insulti nei campi di periferia. E visto che comunque ascolto sempre di ritorno appunto dalle mie domeniche... Senta, ma lei arbitra anche a livello giovanile? Sì, assolutamente. Come trova il comportamento dei ragazzini nei confronti degli arbitri? Assolutamente positivo, se non fosse per il fatto che ci sono i genitori negli spalti che rovinano tutto quanto. Questo è un dato di fatto, però si comportano bene? Sì, assolutamente sì, perché non sono così smaliziati come gli adulti che tendono comunque a fregare l'arbitro. Io volevo un attimino cercare di capire quello che stavate discutendo prima per quanto riguarda il derby di Roma, che avete dato addosso a Gervasoni. Volevo cercare di capire se c'era questa... Non è Gervasoni ma Bergonzi, è per la cronaca. Mi scusi, di Bergonzi, di pazienza. Volevo sapere perché continuate a parlare di ultimo uomo, di fallo da ultimo uomo, quando il regolamento non prevede assolutamente questo tipo di fallo. Cioè questa cosa non esiste e continuate invece ad usarla, secondo me, in maniera sbagliata, e poi tendenzialmente c'è questo gioco al massacro nei nostri confronti che non ci fa bene, poi a noi che andiamo in periferia a andare ad arbitrare. Allora, lei che ha visto spieghiamolo. Io dico che non ho visto il derby, però mi dica solamente se oggi sull'espulsione di Stekelenburg c'era o no una chiara occasione da rete? C'era una chiara occasione da rete. Me lo dica lei, io non l'ho vista la partita. Sì, c'era una chiara occasione da rete. Quindi, va da sé che l'espulsione è sacrosanta. Non esiste il fallo da ultimo uomo, ci possono anche stare tre persone, ma se c'è una chiara occasione da rete e l'arbitro la valuta tale, l'espulsione è legittima. È per questo, finché non c'è l'onestà intellettuale di prendere alla lettera il regolamento come lo conosciamo noi e non come fanno certi giornalai, non giornalisti, finché c'è questo gioco al massacro, poi ci lamentiamo. Sì, che però io quando vado... Francesco, a prescindere dalla chiara occasione da rete, a me sembra una regola iniqua, mi permette, perché poi viene applicata in maniera pressoché automatica, e al settimo minuto di una partita la pregiudica in maniera importante. Posso essere anche d'accordo con lei, però fin tanto che c'è questa regola, noi chiamati lì a farle rispettare. Ma non so purtroppo se noi dobbiamo attenere a quello che sono le regole. Non sto discutendo questo però. Non sto dicendo questo, cioè nel senso che è una regola che secondo me andrebbe abolita perché è penalizzante. Io so perfettamente, è anche una situazione piuttosto facile da cogliere, no? Per un arbitro è piuttosto facile sapere se c'era chiara occasione da gol. Quindi non esistono neanche grandi dubbi. L'unica cosa è che è una regola che viene, come detto, applicati in maniera automatica e che senza discrezionalità, mettiamola così, e che rischia di rovinare il contenuto tecnico di una partita come è successo oggi all'Olimpico. Roberto da Vicenza, grazie per l'attesa. Buonasera gente. Buonasera. Ci sentiamo spesso io. Bene, con piacere. Una domanda di mio figlio. Sì. Che adesso doveva farla lui, invece, sa, con gli amici è uscito. Ma quell'amichevole della nazionale, sì, ci doveva proprio fare, ci doveva proprio fare. Perché ieri sera la sua Juventus, quella mia Juventus, l'ha vista proprio spompata. Sì, è un tema che ha toccato anche Guidolin prima. Insomma, è evidente che queste amichevoli, che alla fine in questo momento della stagione sono davvero poco indicative nel bene e nel male, sono previste dai calendari internazionali, sono questioni commerciali, sono molte cose, sono anche una gran rottura di scatole per in un momento così importante, e che tra partite di campionato, partite di coppa, sono quantomeno inopportune. Lei dice si doveva proprio fare, sì, altrimenti na facevano. È opportuno, sono opportuni impegni internazionali di questo tipo, e aggiungono qualcosa al lavoro della nazionale? Allora la risposta è no. È chiaro che Prandelli, se non magari qualche piccola indicazione, Borini che si vede che è in forma, lo si vede ogni domenica, non ha raccolto nulla, io credo, da questi tre giorni, da questa sconfitta con gli Stati Uniti. Dunque la risposta è chiaramente no. Sentiamo Baldini con Sky. Come evento, però forse l'omaggio che potremmo fare a Lucio Dalla è essere così come sono sicuro che questa squadra ha futura. Ecco. Questo è un titolo ricordato di una importante canzone di Lucio Dalla. Siamo in attesa del futuro, ma avete, Baldini, dopo questo momento di classifica così, dubbi sul presente? No, non ne abbiamo assolutamente, anzi siamo molto ovviamente molto poco felici, sì, ma molto orgogliosi dell'atteggiamento che ha avuto la squadra, del nostro allenatore, di come imposta prepara le partite, che poi non è stato possibile giocare oggi, perché dopo 8 minuti, 7 minuti eravamo già in 10, e giocare 90 minuti, poi restanti 90 minuti in 10, è stato veramente dispendioso dal punto di vista fisico e ovviamente ancora di più da quello nervoso. Però la squadra è stata in campo, è riuscita a pareggiare, è riuscita comunque a stare sempre in partita, ha concesso niente alla Lazio fino agli ultimi minuti, quando ovviamente in contropiede un paio di passaggi sbagliati hanno concesso loro delle ripartenze piuttosto pericolose, ma allo stesso tempo... Giuseppe Cruciani, è vero quello che sta dicendo Baldini? Ciao Giuseppe! Ciao Carlo, a me piace molto Baldini, è un atteggiamento positivo, è ridicolo mettere in discussione Luis Enrique, addirittura la squadra, dopo che fino a qualche settimana fa la Roma veniva elogiata come una novità importante anche dal punto di vista del comportamento. Ma per forza dici così, ma hai vinto, però, godo, hai vinto godo, due, ma ne hai vinti due, che Luis Enrique ha vita, è la battuta che fece la maledizione della Roma, e sto scherzando naturalmente, può essere la battuta che fece Totti prima del derby d'andata, quando Totti a un certo punto, non so se ti ricordi, disse qual è il punto a favore della Roma, qual è il giocatore di Reia, e disse Reia, con polemiche naturalmente, però da quel momento in poi la Roma ha perso due derby, per cui avanti così con Reia, vediamo. Per me tutta la vita avanti così con Reia, ho capito però situazioni surreali come quella di 8 giorni fa, conferenza stampa addirittura spostata di mezz'ora al sabato sera, e chi va in conferenza stampa? C'è Zola che sta parlando con Lotito e Reia poi va in panchina e poi vince anche il derby, e magari domani c'è qualcos'altro, magari domani c'è Villas-Boas che è stato licenziato dal Chelsea. Sì, purtroppo sono cose che accadono nel calcio italiano e quasi e solo nel calcio italiano, a parte i russi in Inghilterra, come hai detto tu, che non hanno lo stile inglese, diciamo, no? Perché Abramovic è ormai specializzato anche lui di licenziamenti. Però io sono dell'opinione che, nonostante qualche problema caratteriale, anche lui ce li ha, nonostante i suoi anni, Reia sia l'ideale per la Lazio, cioè un tecnico. Sì. Di esperienza, che certo non fa un gioco brillante, però è in grado di tenere la squadra unita, di essere un uomo ambiente, un uomo che fa spogliatoio. Io credo che sia fondamentale per la Lazio, per l'umore, per Roma, per cui tutto il resto è un'incognita. Sì. Poi anche lui ha le sue asperità, i suoi difetti, eccetera, chi non ce li ha. Però si parla male, nel frattempo si parla di nuovo male di arbitri, sulla base di vari episodi anche del derby. Sì, ma credo che soprattutto per la questione di Napoli, no, di Parma-Napoli, adesso non so, sul derby non credo che ci siano grandi discussioni, no? Cioè, sull'espulsione, eccetera, no. Sì, più che altro sono discussioni regolamentari. Era chiara occasione da gol e dunque l'esito è stato automatico. Sì, ma insomma, certo, non mi pare una discussione. Certo, io sono contrario all'espulsione dopo una chiara occasione da gol, perché mi sembra un sovrappiù di punizione che stravolge il senso della partita. Baldini, da questo punto di vista, prima l'abbiamo ascoltato, ha ragione. Cioè, comunque la Roma, partendo dal fatto che ha giocato la partita in 10, ha fatto una grande partita in 10, naturalmente. Sì, certamente. Chi vince il campionato? Poi ti lascio. Ma insomma, è chiaro che ormai l'inerzia mi sembra del Milan, però poi se uno guarda i punti, domenica e mercoledì, se la Juventus vince il recupero a Bologna, siamo a pari punti, anzi forse la Juventus ha il favore degli scontri diretti. Certo, l'inerzia e tutto sembra fuori del Milan, che però ha le coppe europee, dunque direi Milan al 60%, dal 60% al 40%. Grazie Giuseppe. Ciao, grazie Giuseppe Cruciani. Ci fermiamo? No, facciamo Mauro dalla provincia di L'Aquila, prima del traffico, abbiamo ancora tempo. Mauro, dica. Alessandria, ma fa lo stesso. Ah, Alessandria, non sono neanche vicine, eh? Sì, intanto grazie di esistere come sempre. Grazie. Tutte le volte. Grazie. No, io volevo dire due cose sulla Roma. Da milanista soddisfatto di ieri, e sperando che il prossimo ritiro lo faccia la Lourdes, perché quel 60% potrebbe essere 70% se non continuassero a rompersene due partite, perché è una cosa veramente impressionante. No, io volevo chiederle due cose sulla Roma. E la prima è sul rigore. Io non l'ho rivisto tante volte, perché purtroppo anche a Sky continuavano a farmi vedere il gol non gol del Milan, invece di magari parlare di oggi, non ho capito perché. Ma non è che il pallone ha cambiato direzione. Io avrei voluto vedere un derby equilibrato per vedere una partita da amante del calcio, invece io ho visto il portiere uscire e il dubbio c'è che tocchi il pallone. Non capisco perché anche nel dubbio l'arbitro non abbia riflettuto un attimo, non lo so. Vabbè, ma no, a me il rigore è sembrato netto, le dico la verità, Mauro. Parlo proprio non da romanista. No, certo, ma nemmeno io. No. Mi è sembrato netto, perché mi è sembrato che insomma, l'impatto sulla gamba destra di Klose sia piuttosto evidente. È chiaro che dopo 7 minuti, se c'è rigore e c'è anche l'espulsione, segna una partita, e questo è antisportivo, se vogliamo, no? Quindi eventualmente si può discutere su quella dannata regola, che secondo me andrebbe eliminata per garantire, perché è fatta per rendere il calcio più spettacolare, quando in realtà lo rovina. Di fatto, almeno a parer mio. I nostri contatti 800 24 00 24 per far sentire la vostra voce, per telefonare da Tempo di Sport, messaggi 349 238 6666. Maurizio, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Dottor Genta, innanzitutto, se mi consente, volevo fare i complimenti per la sua cortesia e straordinaria correttezza. Va bene, davvero. Poi? Si è liberi davvero di dire, di esprimere come si vuole, quindi davvero complimenti. Poi volevo fare due domande sul Milan. Una, mettere in evidenza e vedere cosa ne pensa della competenza di Allegri, che con un centrocampo low cost sta facendo davvero grandi cose. E poi sovvertendo un po' quello che era anche il suo pronostico, e forse il suo pessimismo iniziale, se questo Milan con questo Ibrahimovic può andare in fondo in Champions League. Grazie, dottor Genta. Grazie a lei, Maurizio. Andare fino in fondo in Champions League la vedo dura. Beh, questo turno è passato ed è già un gran risultato. Secondo me era l'obiettivo vero, quello dei quarti di finale per il Milan. Quello che può arrivare da qui in poi è tutto di guadagnato. Io noto invece, in chiave positiva, che la condizione fisica del Milan mi sembra in netta crescita. Noto che insomma Ibrahimovic alla fine i 3 turni di squalifica hanno fatto bene, perché era fresco come una rosa. Noto che lei lo chiama centrocampo low cost, io lo chiamo comunque centrocampo fatto di acquisti intelligenti, perché una delle chiavi di volta di questa stagione, lei lo sa meglio di me, è stato l'innesto di Nocerino, che è costato, hanno pagato ancora un poco i buoni pasto, insomma, al Palermo. È stato un colossale affare. Ci sono ancora molti infortunati, come diceva l'ascoltatore di prima, anche in parte lungo De Genti, però quando hai un difensore come Thiago Silva e hai un fuoriclasse assoluto come Zlatan Ibrahimovic davanti, comunque sei già una squadra che ha la spina dorsale per vincere lo scudetto. Saluto e ringrazio invece un grande protagonista del nostro sport, ora senza volante, però maledizione, come Jarno Trulli. Ciao Jarno. Buonasera a tutti, ciao. Una stagione di Formula 1 senza piloti italiani non è una stagione di Formula 1. Beh, abbiamo sempre la Ferrari, certo è che sarebbe stato meglio avere un italiano, qualche italiano sulla griglia di partenza per il Gran Premio di Melbourne, però è andata così. La tua vicenda com'è stata? Ma era aspettata, anche perché io correvo ormai da 2 anni per un piccolo team. Oggi i piccoli team sono in grande crisi, soprattutto crisi economica, quindi mi aspettavo che prima o poi sarebbe successo, altrimenti il team rischiava il tracollo. Un team non certo in crisi economica è la Ferrari, però a quanto pare anche oggi Alonso ha detto mani avanti, partiremo piano. Ma ti sembra possibile? Si vede che non hanno ancora imbroccato la strada giusta. Non è così facile la Formula 1, non è così ovvio fare le cose fatte bene. Certo è che lo scorso anno hanno già sofferto e quindi si trovavano già in difficoltà e soprattutto in recupero. Però staremo a vedere, il campionato non è ancora iniziato, quindi staremo a vedere. Come lo valuti il campionato di Formula 1, già che ci sono quello di calcio? Ora quello di calcio lo sto guardando un po' di più, visto che ho un po' più di tempo a disposizione. Per quanto riguarda quello di Formula 1 è tutto da vedere, quindi aspettiamo la gara di Melbourne. Per quanto riguarda quello di calcio, un campionato avvincente, perché c'è questo testa a testa tra la Juve e il Milan, insomma, sono ancora tante partite da fare, staremo a vedere. Anche lì vedo bene il Napoli, comunque sta facendo un bel campionato, e l'Inter in difficoltà. L'Inter in pesante difficoltà, ma tra la Juventus che ci mette tanta rabbia, tanta grinta, che ha meno talento, e il Milan che invece può risolvere le partite con Ibra che entra e ne fa 3 in un quarto d'ora, quale ti piace di più, così emotivamente? Ma a dire la verità non è che io lo guardo da appassionato il calcio, non sono un grande tifoso, mi piace lo sport in generale, quindi seguo un po' tutti gli sport. Dire la verità, il Milan ha più qualità, la Juventus ha più grinta, più forza. Tra le due è difficile dire chi la spunterà, perché tra le due c'è una grossa differenza, la Champions. La Juve potrebbe finirla a benzina, però anche il Milan si trova di fronte a diverse partite da affrontare, quindi anche se ha una rosa molto più importante, certo, di quella della Juventus. Certo. Iano, un'ultima cosa che ti chiedo invece da sportivo: che effetto ti hanno fatto le parole di sabato scorso di Buffon? Ma sai, io onestamente non è che lo voglio difendere, però lui fa il suo lavoro e probabilmente ha detto anche la verità. In quel momento lui probabilmente pensava che la palla fosse ancora fuori dalla rete e quindi si è sentito di dire quelle cose lì. E poi tra l'altro deve fare gioco di squadra, certo, e deve sempre avere come punto di riferimento la sua squadra. Certo, sono d'accordo con te. Grazie Jarno. Buon lavoro. Niente. A presto. Buonasera a tutti. A presto al volante di una Formula 1 con Jarno Trulli, Massimo da Bergamo, poi Giancarlo da Agrigento. Dica Massimo. Sì, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione, al di là della qualità che lei esprime, per il fatto che mi fa compagnia in lunghi viaggi. Benissimo. Quindi l'ascolto veramente volentieri. Io sono tifoso del Napoli. Oggi ho visto la partita, ero a casa, Parma-Napoli, e francamente ritengo che il risultato non sia giusto a favore del Napoli. Era più equilibrato, secondo me, un pareggio. Sì, l'ha detto anche il suo allenatore. Io non l'ho sentito purtroppo, in genere lui mi piacerebbe che fosse un po' più obiettivo normalmente. L'ha detto anche il suo allenatore, ha detto non meritavamo di vincere, l'abbiamo fatto grazie a episodi favorevoli come in altri casi. Le voglio fare questa domanda, sì. Considerando che il Napoli a mio avviso, e le ripeto, io sono tifosissimo del Napoli, però credo che se dovessimo passare col Chelsea, non credo in una lunghissima strada in Champions, può dire ancora la sua in campionato? Da che punto di vista? No, nel senso che io sono un inguaribile ottimista, ma se dopo no, ho capito, ma no, da che punto? Terzo posto. Sì. Terzo posto, mi sembra che il Napoli sia lì, insomma, sono 5 punti dalla Lazio. Udinese, un po' di gente, insomma. Ma secondo me se mettiamo Lazio, Napoli, Udinese, secondo me il Napoli è quella più forte. Poi sono d'accordo. È stata distratta, è stata piacevolmente, meravigliosamente distratta dalla Champions League. Ci auguriamo che rimanga distratta ancora un po', no? Eliminando come è nelle sue possibilità questo Chelsea che sta cadendo a pezzi. Non so se sia un bene per il Napoli, magari questo me lo potete dire voi, che Villas-Boas sia stato allontanato ora. Non so se sarebbe stato meglio tenere un allenatore di fatto esautorato con molti problemi in panchina invece del suo vice, che peraltro si conosce molto bene, Di Matteo. Io vedo anche qui un Napoli, al di là degli episodi fortunati di oggi, vedo un Napoli nelle ultime settimane in netta ripresa, e soprattutto un Napoli che quando punta la partita non la sbaglia mai. Abbiamo avuto prove, controprove, riprove in Champions League. Quando il Napoli punta la partita e carica su una determinata partita, la sbaglia molto raramente, innanzitutto dal punto di vista emotivo, come approccio. Poi può perdere punti per strada perché ha limiti di organico, limiti numerici anche, questi sono indiscutibili. Giancarlo da Agrigento. Salve, io innanzitutto volevo fare complimenti a lei perché è troppo competente. Poi io volevo sapere una cosa, io ho una domanda, sono un interista, una domanda di cosa succede all'Inter, perché veramente io non riesco più a capire questa squadra. E poi già ne avete parlato poco fa prima, io ho visto Roma-Lazio, cioè io ancora non capisco come si può o dare il rigore e non butti fuori, cioè lasciando una squadra in piedi, cioè ancora... Siamo sempre lì, Giancarlo, è questione di regolamento, se è chiara occasione da gol, il cartellino rosso in questo caso è automatico, sarebbe un regolamento, una regola che è molto contestata a tutti i livelli ed è anche argomento di cronaca, perché da parecchio tempo si chiede l'eliminazione di questa regola che secondo me, ripeto, è antisportiva. Però questo è il regolamento, quindi la decisione di Bergonzi in quel caso ci sta. Abbiamo invece, e la sentiamo insieme, una battuta di Luis Enrique per nulla contento. Io gli sono molto molto deluso, perché pensavo che potevamo vincere questa partita facendo tutto il nostro meglio, perché così era bisogno, perché la Lazio mi sembra una squadra forte e importante, ma tutto si va via al minuto 3, al minuto 4, al minuto 5, e per me è un peccato, non è la prima volta, già è successo per due volte, che non so che cosa ho fatto per meritare questa merda. E non so se questa merda di Luis Enrique sia riferita alla sfortuna, a Bergonzi o a qualcos'altro. Questo io non lo so. Roberto Salso Maggiore, buongiorno. A voi, hai imparato benissimo l'italiano, Luis Enrique. Molto bene, è un ragazzo intelligente lui. Sì, no. Ragazzo molto intelligente, molto determinato, sa dove vuole arrivare. Molto sapere sulla lingua soprattutto. No, io volevo, la mia era una domanda soprattutto. Io ieri sera ho visto l'intervista di Conte nel dopo partita di Juventus Chievo, e l'ho visto parlando con Boban, col quale si era, diciamo, un po' alterato nel dopo partita di Milan Juve, molto più tenero, molto più addolcito, anche sulle domande sul gol di De Celi, era in fuorigioco, gli hanno fatto notare che era più in fuorigioco questo forse del gol annullato Matri, eccetera. Non sarà che magari la società gli ha imposto anche una linea un pochino diversa, l'avrà calmato un attimo nel carattere? Ma calmato nel carattere me lo auguro, insomma, le uscite, cioè la post partita di Juventus-Milan è stata la cosa più brutta di quel giorno, è stata molto peggio dei tanti errori arbitrali, cioè quel far west di tutti contro tutti senza rispetto nemmeno dei ruoli, nemmeno cioè tra giocatori ci sta, l'ho detto molte volte, anche tra eventualmente lo screzio, la battuta, la frecciata tra allenatori, ma quando si scagliano tutti contro tutti in quel modo, con Galliani che va ad insultare l'arbitro nell'intervallo, eccetera, eccetera. Questo è stato inaccettabile. Quello che ho detto io è che i primi a dover chiedere scusa sarebbero stati i massimi dirigenti del Milan e della Juventus. In settimana hanno fatto questo teatrino della finta pace che non ha convinto nessuno, e anzi secondo me ha pure un po' peggiorato non il clima, ma l'immagine dei due club. Va bene così? Sì, va benissimo così. Grazie, buona Perfetto. Serata. Grazie a lei, buona serata. Sta per cominciare intanto Bologna-Novara, che è il primo dei due posticipi. Il motivo lo conoscete: per lasciare spazio all'ultimo saluto a Lucio Dalla. Questa gara è stata posticipata alle 18.30 e poi alle 20.45 c'è l'Inter. Come sapete, questo è il momento della Spagna di Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Allora, salta Villas-Boas. Salta Villas-Boas in panchina Di Matteo fino al termine della stagione. Questo è ufficiale da oggi. Esatto, Mourinho. La prima panchina che salta. Adesso vediamo gli altri pezzi del domino, no? Che cadono. Mourinho, lo scrivi tu oggi, a Londra, fatti miei. Beh, sì, esatto, fatti miei. C'è anche un po' ragione. Però, insomma, fatti miei, però poi non ti fai fotografare anche con tutti i bambini che incontri, insomma. Mm-hmm. Poteva andarci in maniera più discreta, mettiamola così. Cos'è però, andato a fare? È comunque tutta una casualità. Lui va a Londra e salta Villas-Boas. Sì, Villas-Boas perde, viene e salta. E tutti quanti insieme. Sono contento per Di Matteo perché. E tutti quanti insieme crediamo ad Alice, nel paese delle meraviglie. Per la televisione inglese era molto simpatico. Sì. Roberto. Oggi però c'è Vialli che. Sai cosa avrei visto? Cosa ha scritto su Twitter? No, non l'ho visto, sono dico? On and off da Twitter, un po' ogni tanto ci sono, ogni tanto no. Vuoi saperlo? Come no? Ha detto, non mi piace tanto Di Matteo, un amico, eccetera, però non mi piace tanto quando il vice prende in mano la squadra dopo che viene esonerato il capo, perché quella degli allenatori ha un pool e quindi dovrebbe saltare tutto in botto. Sì, questo ci ho pensato anch'io, oggi quando ho sentito la notizia ho detto beh sì è strano, però è anche vero che il vice era stato imposto a Villas-Boas, non l'aveva portato lui, non penso che ci fossero legami, però sì, di solito è così, cioè, non c'è mai il vice a meno che non sia l'allenatore della primavera, del ragazzino o così. Sì. Però con Abramovic tutto è possibile, insomma, l'altra volta con Ancelotti gli aveva fatto fuori il vice, sì. No? Sì. Era stato il processo inverso, aveva cacciato Ray Wilkins e da lì erano cominciati i problemi. Comunque, come si può dire, il problema madre è quello, la cacciata di Ancelotti, una delle più grosse stupidate mai fatte da Abramovic. Sì, cioè, poi spende 20 milioni per un allenatore, lo tiene 6 mesi e poi dice ciao, adesso basta. Ma dopo poi aveva vinto il doblete subito, al primo anno, cosa che non era riuscita neanche a Mourinho, perché lo deve mandare via. Vabbè, adesso riprende Mourinho? Riprende Mourinho? Ma non lo so, qui la situazione è molto. C'è grande indecisione, mi sembra, su tutte e due le panchine. Sì. Anche Guardiola, l'altro giorno alla conferenza stampa, c'era una faccia da funerale. A me sembra che Guardiola sia la classica buona persona che deve lasciare una ragazza alla quale vuol bene e non ce la fa, insomma, sa che è un po' un brutto gesto. Mm. E quindi si sta tentennando per quello, ma se la mimica l'altro giorno era chiarissima, insomma. Era a disagio, perché poi comunque vuole bene alla gente, vuole bene, se vogliamo, anche ai giornalisti, vuole bene alla squadra, vuole bene ai tecnici, però sembra, non lo so, è lì che si tormenta. Ieri sera però finalmente il Camp Nou si è dato una svegliata, hanno fatto i cori per lui, sì, ha festeggiato molto, sì, il gol del 3-1, una partita epica. Anche i potenti si lamentano, come Piquet, che è stato espulso. Ha parlato di espulsione premeditata, perché nell'intervallo si era lamentato. Se vuoi oggi, attenzione, c'è anche un gol non visto nel derby basco. E stranamente il portiere non ha fermato l'arbitro per dire che era gol, però, come si pretende da alcune parti. Buffone. Non so cosa succederà con la nazionale basca, so che era il Zozzo solo la nazionale basca può puntare, però Sì, era un gol tra l'altro importante, era il gol dell'1-1, alla fine invece l'Atletica ha vinto 2-0. Ecco, questo potremmo parlare un po' dell'Atletico Bilbao, che è veramente uno spettacolo. Mm. Sono quarti e adesso vanno a fare questa partita per me spettacolare all'Old Trafford. Sì. Spero che ne escano vivi, così che avremo un'altra bella partita a San Mamés il giovedì seguente. Sì. Però ecco, queste sono cose belle, eh? Se vogliamo parlare di calcio divertente, ecco, il lavoro che ha fatto Bielsa con gli stessi uomini che aveva Caparrós, gli ha insegnato a giocare a calcio, li fa giocare bene, è uno spettacolo. Quindi vedi che all'Inter magari avevano avuto originariamente l'idea giusta. Grandissima idea. Il problema, poi avrei voluto vedere questi vecchietti dell'Inter sgobbare con Bielsa, con il problema è che Bielsa durava un mese. Lo voglio vedere, capito? È loco cosa gli dicevano. Anche l'altro giorno, grazie a Muniain, lo chiamano in televisione e dice: ma vabbè, adesso te ne torni a Bilbao, no? Una ventina di sessioni video. Dice: no, 20 è il minimo. Dice: sono molte di più. Diceva ridendo. Però lì c'è applicazione massima. Sono degli asceti della panchina, come Mourinho, certo. Guardiola, gente che lavora 24 ore al giorno. L'avrei voluto vedere all'Inter. L'Inter gli avrebbe fatto bene, però secondo me prima o poi qualcuno gli avrebbe fatto le scarpe. Ma prima o poi, più prima che poi. Ti lascio con questo dato, Filippo. Mourinho, dopo aver salutato il Chelsea, ebbene, gli inglesi, Abramovic ha cambiato 7 allenatori in 4 anni. Dopo che è andato via dall'Inter, 4 allenatori in 2 anni, e il tassametro corre, perché stasera vediamo come finisce Inter Catania. Sì, esatto, è un dato eccezionale. Terra bruciata. Dopo di lui non cresce più l'erba. Ma guarda che questo è vero. Al di là del gioco, è normale. Cioè, quando un allenatore valeva anche, io ho sempre avuto questa convinzione per allenatori come Sacchi, come Capello, che ti chiedono mi viene una parola che però non è elegante, ti chiedono l'anima, ti chiedono il sangue, ti chiedono tutto, ti chiedono l'estremo, è normale che lascino terra bruciata intorno. No, è così, in maniera particolare c'è un gruppo ovviamente troppo, cioè che è arrivato al massimo nel suo picco d'età, non poteva più andare oltre, non si può chiedere, con tutto poi potranno ancora fare grandi partite, però il ciclo si è chiuso a Madrid, insomma, è probabilmente per questo che Mourinho se n'è andato, perché sennò doveva rifondare e magari non gli andava di rifondare con gente che aveva a cuore. È un problema che secondo me Guardiola non ha, perché alla fine di trentenni lui ha solo Xavi e Puyol, quindi potrebbe star lì quanto vuole, poi con quella cantera. Però all'Inter probabilmente Mourinho ha fatto questo tipo di discorso, e infatti adesso al Madrid è una squadra giovanissima. Però chi prenderebbero a Barcellona? È un altro discorso. Chi prenderebbero a Barcellona? Questo è un domandone, magari Bielsa, però non lo so. C'è Oscar Garcia, che è l'allenatore della casa, non lo so, no? È difficile. Se vogliono un olandese potrebbero pensare a De Boer, è complicato, perché anche lì come fai a arrivare dopo Guardiola, dopo che questo ha vinto so 13 tornei su 16, anche lì il tassametro corre. Ma sai, lì ci vuole uno che ha il buon senso di proseguire il lavoro, non di arrivare ad insegnare qualcosa. Però proseguire il lavoro sarebbe sempre una brutta copia. Come il figlio di Cruyff, Però la strada è quella, cosa vuoi fare? È un po' così, non lo so, è difficile anche proseguire il lavoro, sì, i giocatori se li hai, però non lo so. Sarà divertente, diciamo che sarà divertente scoprirlo. Sì, domanda complicata, ma comunque anche qui, anche se dovessero cambiare qui a Madrid, non è semplice. No, tutt'altro è facile. Dopo Mourinho, soprattutto se vince, se ne va... Voglio vedere. Grazie Filippo, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Filippo Maria Ricci. Marco da Casale Monferrato, Antonello da Olbia, i prossimi due ascoltatori 800 24 00 24, numero verde. Marco. Ah, buonasera. Buonasera, dica. Ascolti, due domande semplici per modo di dire. E quale squadra vede favorita per la Champions, per la vittoria? A mio parere la Coppa rimane in Spagna, comunque. E quale squadra? Bravo, ma da che parte? E penso dalla stessa parte. Dalla stessa parte. Secondo me, poi sento il suo parere. E poi un'altra cosa, sempre parlando di Spagna, che tra l'altro mi sembra che offra il calcio più gradevole, comunque, a detta mia, con l'Inghilterra. Sicuramente non non vedo partite così spumeggianti in Italia, a parte per le polemiche. Marco, non lo so, perché anche in Spagna ci sono certe partite dove c'è una differenza avvilente in campo. Il campionato spagnolo a me non piace poi tantissimo, soprattutto quando vedo giocare Barcellona e Real Madrid con le medio piccole, per questi 5-0, 6-1, 7-4 sono abbastanza stucchevoli. Si è creato negli anni probabilmente un divario tale che le grandissime sono sempre più grandi. Sì, mentre le partite inglesi sono comunque più combattute, sono comunque più incerte. Insomma, il campionato spagnolo mi sembra davvero poco equilibrato per quanto riguarda la classe media. Sì. Comunque, l'altra domanda era, visto che parlavamo di Spagna, quale squadra lei vede favorita per gli europei di quest'estate? Questa è bella domanda. fin troppo facile rispondere alla Spagna campione di tutto. Io però alla luce anche dell'ultimo mondiale, dovessi giocarmi un euro, me lo giocherei sulla Germania, e per tornare al discorso di prima, anche in chiave finale di Champions League, attenzione al Bayern Monaco, che è una squadra serissima, nonostante la sconfitta con il Basilea, che non ho grossi dubbi verrà rimediata nella partita di ritorno. Bayern Monaco che ha la finale in casa, questo non sempre porta bene, però è comunque una squadra che ha solidità, che ha freschezza, che ha qualità, che ha, è una grande d'Europa. Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco a mio parere sono le tre più forti, poi sarà una di queste tre. Antonello, Olbia, buonasera. Buonasera, io sono un tifoso milanista, adesso mi allaccio a quello che stava dicendo lei prima sul discorso Champions. Ma perché non mette il Milan anche? Sto riguardando i gol di Ibra di ieri sera. Terzo meraviglioso, Dica, vero. Dica. E poi perché non metto il Milan? Anche... Perché non metto il Milan? No, perché il Milan secondo me non è all'altezza. Non la vedo come una squadra che ha la taglia della finalista di Champions. Ovviamente spero di sbagliarmi. Tanta esperienza, Sì, certo. Però il Milan ha tanta esperienza a livello europeo che. Blasone fa paura a tutti. Quella maglietta a livello internazionale ha un peso, fa paura a tutti, certamente. Però da un punto di vista qualitativo, insomma, io non vedo un Milan in grado di eliminare il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, perché da lì bisogna passare per andare in finale di Champions. Quindi sinceramente non lo vedo, poi magari può succedere, può capitare, però già un primo confronto di questo livello tra il Milan e il Barcellona c'è stato e ha rafforzato questa mia convinzione, semplicemente questo. Una notizia credibile che è questa: dalle 15 di oggi diversi tifosi del Napoli si sono già messi in fila ai botteghini di fuori grotta per aspettare le 10 del 5 marzo, cioè di domani mattina, momento in cui verrà iniziata la vendita dei biglietti destinati ai fortunati tifosi azzurri che potranno seguire il Napoli a Londra il 14 marzo, settore ospiti dello Stamford Bridge. Dunque, notte davanti ai botteghini per molti napoletani. Massimo, Roma, buonasera. Pronto, mi sente? Sì, la sento. Ok, io tifo Roma, faccio sport da una vita, adesso mi sto allenando e stimo molto Luis Enrique. Sì. Però io penso che ora, rispetto dei tifosi della Roma, che lui vada davanti ai microfoni e dire: è ora che mi interrogo perché la Roma perde con squadre tecnicamente inferiore alla Roma. Sì. È ora che lui faccia quadrato e dica: qualcosa sbaglio. Sì. Ma lui ha sempre detto di essere in discussione, Non si è mai considerato intoccabile, Luis Enrique. È un grande allenatore, allena bene, tutto quello che vorrei, però è ora che lui non si può perdere oggi contro una squadra, contro la Lazio, non ha fatto niente, contro il Bologna, contro il Siena. Sì. Lui deve andare lì di fare testa china, mi scuso, forse ho perso un po', mi sono un po' montato la testa. Quindi ci scendiamo per terra, facciamo le cose più semplici possibili, ma mandiamo la palla in porta. Allora magari converrebbe cambiare allenatore, perché Luis Enrique ha una sua idea precisa, molto interessante peraltro. Si sapeva però fin dall'inizio, Massimo, che la Roma sarebbe stata comunque una squadra ondivaga, perché è una squadra molto giovane e talentuosa che gioca un calcio diverso da tutte le altre, quindi non poteva fare della continuità la sua arma vincente. Ha dei picchi, anche delle serie di partite positive, poi degli scivoloni, ma era fatale quasi che la Roma dovesse giocarsi la stagione così in altalena. Io capisco il derby perso oggi che brucia, però il derby perso oggi è una partita condizionata da quell'episodio, perché giocare 83 minuti in inferiorità numerica nel calcio di oggi è un'impresa pressoché impossibile, e sperare di portare a casa la pelle è un'impresa difficilissima. Lino da Mantova. Buonasera. Buonasera, dica. Senta, io stavo ascoltando e mi dispiace, sono un po' contraddittorio in quello che ha detto lei. No, perché? Prima di tutto, quando ci divertiamo, lei ha detto... di più. Eh? Così ci divertiamo di più. Bene, bene, adesso le spiego il perché. Io prima di tutto sono un tifoso milanista, quindi sì. Non so se le sono simpatico o antipatico. Quindi... Simpaticissimo. Bene, bene, bene, questo mi fa gioia. Lei ha detto prima che dove finisce Mourinho, quelli che iniziano dopo è un calvario, perché trovano terra bruciata dappertutto. E ha fatto purtroppo il paragone di Sacchi. Io Sacchi ho visto molto bene, è stato molto chiesto molto ai milanisti, e giustamente ai giocatori del Milan, però poi devo di contraddirla, perché quando è arrivato Capello al posto di Sacchi, sì, tutti dicevano che aveva preso una squadra alla frutta, sì, invece Capello ha vinto tantissimo. Sì, certo, questo no, ma certo, ma mi contraddicono, mi contraddicono i risultati stessi, però quello che dico io è che ci sono allenatori che hanno, ma perché è arrivato Capello, sono arrivati altri giocatori, è stato comunque introdotto un modo diverso di gestire la squadra. Io dico che un allenatore di questo tipo non può durare più di 3 stagioni alla guida di un club, perché? Per ragioni fisiologiche, perché sono allenatori che ti chiedono un'intensità emotiva di prestazione fisica eccetera, per cui dopo un po' non di ossessività di applicazione mentale, per cui dopo un po' non ce la fai più. È arrivato Capello, che è stato estremamente intelligente nello sfruttare ciò che rimaneva del lavoro di Sacchi nel creare un calcio più semplice, più lineare e meno dispendioso da un punto di vista appunto emotivo. Questo certamente. Gianluigi da Salerno. Buonasera, mi Buonasera. Sente? Sì che la sento. Sì, allora, relativamente a Villas Boas, io ho letto, ecco, mi è venuto di fare un intervento su questo allenatore, perché il vulcanico De Laurentiis, io naturalmente sono tifoso del Napoli, nel parlare del dopo Mazzarri, pure perché è uno stratega su alcuni aspetti, secondo no? me va all'Inter. Secondo sì, me anche, va all'Inter. Anche io penso che vada all'Inter, ma a parte il discorso di Mazzarri, che diceva che lo vedeva dopo Mazzarri, insomma, vedeva Villas-Boas niente male come allenatore del Napoli, ma a parte questo, ecco, lei pensa che quel tipo di allenatore, più che altro a parte i soldi che servono per pagare, certo, questo sicuramente, dice vabbè, ma poi De Laurentiis è bravo a fare il marketing per incassare, comunque vabbè. Detto questo, dicevo, relativamente a questo allenatore, secondo lei è un allenatore che è stato contestualizzato male, nel senso che il Chelsea doveva resettare tutto, comprare dei ragazzi giovani e utilizzare quell'allenatore per costruire qualcosa. Lei ha ragione, perché vedi, ci sono allenatori adatti ad ogni missione. Cioè, io credo che ad esempio Villas-Boas in una squadra come questa Inter avrebbe fatto forse la stessa fine. Credo che Benitez, che è un allenatore adatto a costruire all'Inter, ha fatto la fine che ha fatto. Ci sono allenatori che devono essere messi in condizione di poter costruire qualcosa, e di poter costruire qualcosa partendo dalle radici. Villas-Boas sarebbe stato un allenatore non era un allenatore in grado di gestire anche qui un nucleo di giocatori al declino o verso il tramonto, come è il Chelsea di quest'anno. Può essere fatto un parallelo con l'Inter, ma era un allenatore cui doveva essere data una squadra nuova e carta bianca, cosa che non è avvenuta, ed infatti è stato pagato un sacco di soldi, ma tanto quelli sono di Abramovic, quindi chi se ne frega, ed è stato esonerato a metà stagione, nonostante qualche risultato l'avesse anche ottenuto. Quindi lei ha perfettamente ragione su questo, da questo punto di vista. Io vedo Villas-Boas all'Inter, è chiaro, con nell'ottica vedrei Villas-Boas all'Inter nell'ottica di un progetto di ricostruzione. Poi non so assolutamente se l'Inter in questo momento ha i soldi per ingaggiare Villas-Boas e per ricostruire la squadra. Salvatore da Gaeta, salve. Sì, salve, buonasera. Buonasera, dica. Sì, io volevo tornare, ho sentito qualche commento, osservazioni circa il livello tecnico del campionato italiano. Sì. Facevo una riflessione, volevo un attimo confrontarmi con lei. O io ho avuto modo di assistere a qualche più di qualche partita del campionato inglese, prima si parlava di Inghilterra, Spagna, ma io penso che non si tratti più di un problema tecnico del calcio italiano, ma piuttosto del contesto, nel senso di stadi praticamente vuoti. Io non ma vedo certo, ma poi lei se vede il campionato tedesco, se vede il campionato francese, il contesto è totalmente differente, si gioca in un altro ambiente, in un altro clima, e questo è vero. Se parliamo di qualità, beh, non sono così d'accordo con quelli che schifano il campionato italiano, basta guardare il rendimento delle nostre in Champions League. Certo, intendiamoci, vogliamo parlare di estetica calcistica o vogliamo parlare di risultati, di sport, di prodotto? Allora, non mi sembra che il campionato italiano sia da buttare via, nemmeno come interesse. Pasquale da Palermo, rapidamente, perché abbiamo ancora un minuto. Dica. Sì. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Comunque niente, io volevo fare una critica un po' a tutti i tifosi juventini e i tanti giornalisti che adesso tutti danno per spacciato insomma questa squadra. Sinceramente a me non sembra che la Juve sia la partita favorita per il campionato, che già è molto per quello che ha fatto. Però volevo solo dire una cosa, cioè ci rendiamo conto effettivamente la Juve come è arrivata qui. Adesso ha finito la benzina. No, Pasquale, aspetti un attimo, la Juve non ha finito la benzina, tutt'altro, la Juventus è tutt'altro che spacciata, è l'unica a non aver ancora perso una partita, è chiaro che gioca con il Bologna, quella sarà una partita cruciale per agganciare il Milan e riprendere anche fiducia, ma la Juventus è tutt'altro che spacciata, nessuno ha detto questo, almeno oggi, almeno qui. Ci fermiamo invece, torniamo alle 8:30 con il basket, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltretti in regia più tardi.